I soldi sono tutto, la macchina nuova che hai comprato, la tua fantastica casa, i vestiti che indossi, le persone con cui ti circondi, tutto riguarda te e te solo. Ma di notte, quando ti siedi sul tuo divano, solo, il tuo telefono è spento. Nessuna TV da guardare, niente internet. Siedi lì disperato nel silenzio, non sai nemmeno perché, mentre lentamente muori dentro. Solo l'uomo ha sete di Dio, ma preferirebbe bere veleno dall'inferno che acqua dal pozzo eterno e vivente. L'uomo ha fame di Dio, ma preferirebbe mangiare un coltello affilato che godere della guarigione, del pane e della vita. Ma di notte, quando ti siedi sul tuo divano, solo, il tuo telefono è spento, nessuna TV da guardare, niente internet. Siedi lì disperato nel silenzio, non sai nemmeno perché, mentre lentamente muori dentro. Solo e vivente, l'uomo ha fame di Dio, ma preferirebbe mangiare un coltello affilato che godere della guarigione, del pane e della vita.